ministro dell'interno è quel Mario Scelba che spara sulla folla e prega il Padre Eterno. I comunisti avversa col manganello in mano e crea grazie alla croce il miracolo italiano. Quell'atmosfera che invece oggi non c'è più. Si ballava la sera laggiù in Riviera quando l'Italia fece il boom. Boom boom boom boom boom boom boom. Ti ricordi Licio Gelli che tra un twist e Nalligalli del suo piano discuteva allegramente coi fratelli, e il generale De Lorenzo rifiniva i dettagli del suo grande piano solo. E dalle campagne la gente andava via, attirata dal progresso, seguendo scie di smog. Che sopra il verde non si coltivava quasi più, quando l'Italia fece il boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. La Banca Nazionale dell'Agricoltura ormai non serviva quasi più. Così lo Stato pensò bene di farla demolire e un giorno organizzò un grande boom. Quelli che era madre erano gli anni che il ministro degli interni si chiamava Mario Scelba. Si calcola che negli anni 48, 49 e 50, negli scontri di piazza con la polizia, rimasero morte 62 persone. Si calcola, cara madre, che fino al 1960, cioè che la guerra da un pezzo che era finita, che fino al 60, su quasi 400 tra prefetti e viceprefetti, solo due non erano stati nelle istituzioni fasciste.